Carissimi, bentornati. Nuova puntata del libro di Tenera Amata. Siamo giunti alla numero 22 e ci troviamo più o meno a un po' più della metà, verso i due terzi, sì, dell'opera. Avverto subito che questa sera ci saranno dei passaggi molto, molto, molto, molto belli e molto importanti, come accennato la volta scorsa. Oggi il Signore attraverso Tenera Amata, vero che questa è una cosa che ci si può arrivare anche dai principi generali della fede, ma parlerà del perché il dolore nel mondo, il grande scacco della sofferenza dinanzi a cui molti cadono, addirittura anche negando l'esistenza di Dio, no? Perché dicono: ma se Dio è un essere così buono, così santo, perché il dolore? E vedremo il perché, e vedremo anche delle belle sorprese che ci aiuteranno a conoscere e a comprendere meglio il nostro Dio e anche a capire bene a chi affibbiare colpe e responsabilità per le cose che non funzionano. Non è mai colpa di Dio, Dio è sempre innocente. Le colpe vanno sempre cercate da qualche altra parte. Io direi di non dilungarmi troppo nelle introduzioni, ma di passare immediatamente alla lettura. E siamo nel libro digitale, io mi trovo a pagina 69, credo che il libro digitale riproduca più o meno il cartaceo, e riprendo da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Magari leggo l'ultimo capoverso, come sempre, per ricontestualizzarci un po'. Magari, disse Tenera Amata, interrompendo i miei pensieri, il nostro Dio ti facesse dono nella tua vita mortale della convinzione profonda ed operativa dell'amore. Se ciò fosse, comprenderesti un po' ciò che è veramente l'amore creato. E per analogia l'amore increato, cioè l'amore personale con cui il nostro Dio Padre e il nostro Dio Figlio incarnato si amano nella loro Santissima Trinità al di là di tutto l'infinito. Forse accennavo la volta scorsa che oggi si parla, si riparla, si riparla, no? I classici discorsi, l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio. A volte diventano discorsi anche un po' retorici, oppure triti e ritriti, no? Oppure vuoti di contenuto. Quando uno non sa che dire, tanto se dice che Dio è buono e che ci ama, dice sempre giusto, perché non si sbaglia mai, no? Però non si può, come dire, trasformare questa che è la cosa più bella che esiste in tutto l'universo, come dire, in un discorso vuoto, di circostanza o in quello che viene comunemente chiamato un po' aria fritta, no, no, non si può. Perché qui stiamo proprio nel cuore. E invito tutti, invito me a pregare immensamente il Signore che ci doni la convinzione profonda ed operativa dell'amore. Sappiamo che tutti quanti i discorsi che Tenera Amata fa a Riccardo e quindi che noi possiamo sentire hanno questo scopo: formare convinzioni profonde e operative in vista di una grande santificazione sulla terra e quindi di una grande glorificazione in cielo. Allora Riccardo risponde: ci eravamo fermati qui. Tenera amata, queste idee sono molto elevate per me. E lei risponde: ma non lo sono tanto. Se disponi il tuo udito intellettuale ad ascoltarle e crederle, attenzione a questi passaggi, eh? I misteri divini sono inaccessibili al peccatore superbo ed egoista, ma sono facili da credere, non dico da penetrare con la mente, al cristiano libero, generoso e forte. All'autentico credente assiste il dono divino di assaporare le cose dell'Altissimo. E qui tocca fare già subito il secondo pit stop, perché questo è un passaggio meraviglioso. Non è vero che è troppo difficile. Niente è troppo difficile. Sapeste quante persone mi scrivono, oppure intervengono, oppure mi dicono, ma sta divina volontà è troppo difficile. Dico, ma non è difficile, ma se l'ha vissuta la Madonna, che è una persona, certo, intelligentissima, ma più semplice di questo mondo, non è così tanto difficile. È difficile nella misura in cui purtroppo non disponiamo il nostro udito intellettuale ad ascoltare e credere. Quasi sempre questo lo facciamo perché abbiamo delle idee, dei preconcetti, dei pregiudizi, qualcuno le chiama con un termine un po' più complicato, delle precomprensioni, attraverso cui filtriamo le cose che ascoltiamo. E quindi se il nostro Signore vuole dirci qualcosa di bello, qualcosa che esce dai nostri quattro schemi, noi non l'ascoltiamo. Non è che è difficile il concetto, è che ci sono delle barriere dentro la mia testolina o dentro il mio cuoricino che quel concetto non lo fanno passare. Quando poi come dire, si sta nello stato di peccatore in senso forte, in senso stretto, quindi superbo ed egoista, ah, Dio resiste ai superbi, si legge nella Sacra Scrittura, no? Dio non si rivela al peccatore. E quindi le cose dello spirito, scrive San Paolo, per l'uomo carnale, immagine del peccatore, sono follia. Non ne capirà nemmeno un H, ecco, come espressione che usa Gesù tante volte nel libro dei cieli, no? Non ne capiranno un H. Ma sono facili, attenzione, da credere, non da penetrare con la mente. Attenzione, noi, anche, vedete, tante domande che a volte mi fanno, e tante volte devo rispondere, guarda figlio mio, guarda figlia mia, cioè, il nostro intelletto arriva fino a un certo punto. Anche qui con il libro di Tenera Amata, se uno volesse, si potrebbero fare centinaia di domande. Non è una cosa molto saggia. È saggio, a mio avviso, rimanere a ciò che è detto, a ciò che è rivelato, perché ciò che non è detto vuol dire che il Signore non lo vuole rivelare. Non lo vuole rivelare perché non è necessario, o non è utile, o non è opportuno. E quindi se lui non lo vuole rivelare, e noi non andiamo ad indagare, ci basta e ci avanza quello che ci ha detto. E abbiamo molto da meditare e da cercare di comprendere quello che ci ha detto. E attenzione però, l'autentico credente assaporerà le cose dell'Altissimo. Io auguro a tutti di poter deliziarsi delle cose dell'Altissimo, anche perché quando ci si delizia delle cose dell'Altissimo, le altre piccole cose di questa vita mortale tornano immediatamente al posto loro, perché non c'è paragone. Un certo Agostino di Ippona, ossia Sant'Agostino, ha lasciato scritto nelle confessioni, insomma, lui era uno che si è convertito e si è battezzato a circa 30 anni, quindi prima ha vissuto come un pagano, quindi i pagani. Poi lui era una persona molto colta, molto intelligente, istruita, frequentava certi ambienti un pochino, no? Molto in, li definiremmo oggi, no? Si è fatta la vita, aveva un figlio. Lo sapete che Sant'Agostino c'aveva un figlio, no? Quindi ha Deodato, quindi tutto normale, perché è tutto quanto avvenuto prima del battesimo, quindi niente, cioè tutto normale dentro un contesto di mentalità pagana, no? Eppure lui scrive, dice, un solo secondo di contatto intimo con il Signore non vale tutti quanti gli amplessi che io ci ho avuto in tutta quanta la mia vita. E insomma, parla a ragion veduta e ad esperienza vissuta. Quindi è in grado di fare un paragone, perché ha conosciuto l'uno e l'altro. Quindi chi va ancora troppo appresso ai piaceri del mondo è perché non conosce l'amore di Dio. Ed è solo chi non conosce l'amore di Dio che va appresso ai piaceri del mondo, perché quando uno c'è qualcosa di più bello e di più importante a cui pensare. Capite come le conoscenze divine ci rendono anche forti, no? Che te deve dentà il diavolo? Che te deve dentà? Cioè, se uno è abituato a mangiare ostriche, caviale, scampi e mazzancolle, bistecche fiorentine da 1,5 kg, e che viene tentato da cibi grossolani. Magnateli tu, gli risponde, no? Io ho altro a cui pensare, no? Cioè, come fa mangiare, che ne so, l'uovo al tegamino, io mi mangio il caviale e le ostriche, magnatelo tu l'uovo al tegamino, no? Cioè, sono abituato ad altre cose. Questo è il paragone reale. Un po' basso, ma. Allora, riprende Riccardo, e qui attenzione che arriviamo a un passaggio clou. Pensai al dolore umano, alle tante pene e sventure. Che ci affliggono durante la vita mortale. Tenera amata, se Dio onnipotente e amore ci ama, perché il dolore ci insidia in questo mondo? Ecco la domanda delle. La domanda delle domande, no? E dobbiamo sentire bene la risposta, è questa, mettercela bene in testa, segnarcela e non dimenticarcela mai. Il Signore non voleva che l'umanità soffrisse minimamente. Sapevate questo qui? Molta gente dice, ah no, ma se tu vai presso al Signore, poi bisogna soffrire. E dice che bisogna prendere la croce ogni giorno e seguirlo. E questo è proprio, ma io non voglio soffrire, tanto bene. Il nostro Signore non voleva che soffrissimo nemmeno minimamente. La sofferenza non è entrata nel mondo a causa dell'Altissimo. C'è un bellissimo passo delle lamentazioni del profeta Geremia, che a me ogni volta che lo rileggo proprio colpisce in maniera veramente forte. Se ci riesco vorrei veramente trovarlo e leggervelo al volo, proprio in diretta, no? Che a un certo punto dice, no, ma l'Altissimo, contro il suo volere e contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli degli uomini, no? Dovrebbe essere il capitolo quarto del libro delle Lamentazioni. Vediamo un po' se è vero, eh. No, forse è il capitolo 3. No, è il capitolo 3. Eccolo qui. Ci arriviamo, eh. Versetto 31. O meglio. Leggo dal versetto 26, anzi dal 25. Ci gustiamo una parentesi di Sacra Scrittura perché sentite che bello questo brano. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con l'anima di chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la guancia, si sazi di umiliazioni, poiché il Signore non rigetta mai. Ma se affligge, avrà anche pietà, secondo la sua grande misericordia. Attenzione a questa frase. Poiché contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Altra cosa da farci un bel quadro. Mettiamo insieme questo contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo con la frase ritenere amata. Il Signore non voleva che l'umanità soffrisse minimamente. Se fosse dipeso dal Signore, la vita della terra sarebbe stata dove c'erano, dove lui ci aveva posto appena creati. Sarebbe stato il paradiso terrestre. Sarebbe stato semplicemente l'anticamera del paradiso. Questo è quello che Dio voleva. Che la terra sia diventata per molti l'anticamera dell'inferno e per molti altri l'anticamera del purgatorio, ma questo non dipende dall'Altissimo, eh. Questo dipende da noi. Siamo noi che l'abbiamo fatta diventare così. Allora, proseguo la spiegazione di tenera amata. Quindi, Dio non voleva che soffrisse l'uomo, ma l'uomo si è smarrito nel peccato e il nostro Dio ha permesso il dolore, che è conseguenza del peccato. Il dolore sofferto cristianamente affinché il mortale, nel ritrovare se stesso nella sua impotenza, possa ritornare al suo legittimo stato di amico e di figlio adottivo del Creatore. Cioè, il peccato produce la morte, la sofferenza. Il Signore quindi ogni tanto ti lascia nella sofferenza, certo. Perché? Perché tu capisca che stai soffrendo a causa dei tuoi peccati, ti fermi e ritorni nelle braccia del tuo Creatore. Tutto qua. Chi si allontana da Dio e fa una vita apparentemente fantastica, no? Fai quello che vuoi, cioè do what you wish, il motto di Aleister Crowley, fondatore del satanismo. Sì, ma che bello, no? Posso fare tutto quello che mi pare. Ma prova, vedrai. Prova a dare libero sfogo alla tua umana volontà. Vai, vai, buon divertimento. Vedrai come sei contento. Ti ritroverai nell'inferno assoluto, nell'angoscia più profonda, nella depressione più nera, nel peggio del peggio accumulato dentro il tuo cuore, le passioni più becere. E il Signore spera che questa sofferenza che tu ti sei dato da solo, non te l'ha data Lui, si trasformi in occasione per il ritorno a Lui, come la parabola del figlio il prodigo evidentemente mostra in maniera inequivocabile, no? Quindi, come vedi, la sofferenza cristiana è diventata una preziosissima forma dell'amore di carità, un ingegnoso modo di raggiungere l'Altissimo. E attenzione a quest'altro passaggio. Tuttavia, nel cielo, disse con tristezza, deploriamo lo spreco del dolore umano. Ah, gli sprechi sono sempre peccato, eh? Se l'anno prossimo, come mi è già balenato in mente, quindi dopo tenera amata ascolteremo Gloria Polo. Ah, vedrete su Gloria Polo che guai passa dinanzi alla divina giustizia. È meglio che ve lo dico, così uno corre ai ripari prima che sia troppo tardi. Chi spreca il cibo? Il cibo non si spreca mai, ma nemmeno in piccole quantità. Non c'è ragione per farlo. Ci si può organizzare. Lo spreco è sempre un peccato, siamo d'accordo, no? Chi spreca, che ne so, l'energia elettrica, tiene luce accesa a vanvera, chi spreca l'acqua, chi spreca il tempo. Sprecare il tempo è un grande peccato. Chi spreca e sperpera i soldi, d'accordo? Anche se è più frequente l'avarizia che lo sperpero. Ma ci abbiamo mai pensato che si spreca il dolore? Cosa che è deplorata dal cielo. Si spreca il dolore. Che significa? Quello che io dico sempre, il dolore di per sé è una cosa negativa. Il dolore diventa una cosa positiva quando tu sai trasformarlo in croce. Quello che ha fatto Gesù. Trasformare il dolore in croce significa una cosa molto semplice, che quella cosa brutta e negativa, tu la fai tua, l'accetti, la accogli, la offri, ti lasci, come dire, ferire da quel dolore sotto la mano dell'Altissimo, riconoscendo che te lo meriti, offrendo quindi quel dolore al Signore, perdonando chi te l'ha inflitto, e vedrai che quel dolore produrrà dei frutti strepitosi. Se tu invece qualcuno ti insulta, ti avveleni, lo insulti peggio, ti vendichi, ti viene una malattia e stai a passare il tempo a bestemmiare e a imprecare contro Dio che ti ha mandato questa malattia e che se fosse stato buono non te la mandava, e cose del genere, adesso non è, gli esempi si potrebbero moltiplicare a dismisura, sprechi dolore. Tanto soffri come prima, anzi soffri peggio di prima. Perché chi soffre ribellandosi al dolore soffre il doppio. Cioè no, se mi ribello almeno soffro di meno. No, soffri il doppio. E sprechi quel dolore, cioè sprechi l'occasione di trasformarlo in fonte di grazie. Questo è il dolore trasformato in croce. Prosegue. È come buttar via miliardi nello scarico. La sofferenza si perde quando soltanto si soffre e non si cristianizza. Lei lo chiama così e non si cristianizza. Io lo chiamo trasformare il dolore in croce, ma il concetto è lo stesso, eh? Il dolore si trasforma in felicità futura quando si soffre per amore di carità verso il Signore. Altrimenti il patire non è altro che un'emorragia spirituale. Ci sono fondamentalmente due tipi di sofferenze: quelle che ci capitano, che non ce le andiamo a cercare, ma come tutti quanti i santi ci hanno insegnato, i santi non facevano penitenza e penitenze. Perché? Oggi una montagna di sciocchi, stolti e modernisti, che si pensano che tutto quello che è avvenuto nella storia prima di loro sono una banda di stupidi, no? Sono intelligenti soltanto loro. A me questa cosa, figlioli miei cari, fin dai primi momenti in cui mi imbattevo contro questo modo di pensare, io dico, insomma, io certamente non mi posso proporre a nessuno, a parte che come esempio di nessuna virtù, ma meno che mai dell'umiltà, ahimè. E pregate per me se avete questa carità. Dico, però non si può giungere a questi livelli proprio inaccettabili, grossolani, di superbia. Ma come ti permetti tu di sentirti al di sopra, di metterti a giudicare i santi? Quella io ho sentito dire di Santa Margherita Maria della Cocca, dice, quella era una pazza psicopatica. Santa Margherita Maria della Cocca era una pazza psicopatica. Dico, ma ti ha dato dei volte al cervello? Te sei bevuto un po' troppo, ti sei obbligato di mosto, dissero ai tempi degli Atti degli Apostoli. Ma tu sei scemo? Ma come ti permetti? Quindi, fermo restando che certamente non possiamo metterci a giudicare i santi, noi dobbiamo farci giudicare da loro, non è che noi giudichiamo loro. E com'è che facevamo tutte queste penitenze, alcune delle quali se uno le vede dice, ma che erano delle cose estreme, che chiaramente non è che possiamo metterci a rifarle nella stessa forma in cui le facevano loro. Però perché le facevano? Erano doloristi, come dice qualcuno. Oggi ci stanno le uscite degli isti, no? Ogni tanto qualcuno se ne esce qualche ista nuovo. Riferito a queste cose li chiamano i modernisti, li chiamano i doloristi. Quelli che hanno l'idolatria del dolore, addirittura. Ma pensate che quante stupidaggini che tocca sentirsi dire. Tutto offerto per amore. Loro offrivano le loro piccole cose per espiare le colpe proprie, anche, ma poco. Per riparare i peccati del mondo, tanto. Per ottenere attraverso quelle sofferenze offerte per amore la conversione, ancora di più. Perché il nostro Signore che cosa ha fatto? ha preso tutti i mali e i dolori e le sofferenze prodotte dai nostri peccati, li ha offerti al Padre per amore, perché tutto ciò che causa quei dolori, cioè il peccato, potesse essere cancellato. E ne ritornassero grazie e benedizione. Questo è quello che ci ha insegnato il Signore. E quindi i santi fanno quello che ha insegnato il Signore. E non ti permettere di giudicare un santo se tu santo non sei. Riprende Riccardo, forse lo spreco del dolore è dovuto all'ignoranza. Risponde Teramata, sì, in parte, in gran parte sì. Occorrono dei veri apostoli al nostro Signore Gesù Cristo. Che senso dei veri apostoli? Dei veri apostoli che evangelizzino il dolore, che tornino a dire chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché l'ha detto Gesù nel Vangelo, e a spiegare perché bisogna fare così. E Riccardo riprende: non comprendo la ragione del dolore cristiano. Perché renderci graditi a Dio mediante la sofferenza? Perché non soddisfarlo per mezzo di lodi o del semplice pentimento dei peccati o di qualcosa del genere, ma in modo indolore? Bella domanda, no? Quando ti capita una cittadina del cielo, uno si sfoga, uno si toglie un po' di belle domande dal cuore. Ma come? Ma che ci fa nostro Signore dei dolori? Facciamo un bel sacrificio di lode, no? Sta scritto anche nei Salmi, chi offre il sacrificio di lode, questi ti onora. Facciamo che ci pentiamo dei peccati. Oh, pentimento perfetto, per carità, mi dispiace tantissimo, ma niente sofferenza però. Risposta di Teneramata. Ma perché la lode, il pentimento, la preghiera e qualunque altra forma indolore, come tu dici, noi gliela dobbiamo a Dio. Gliela dobbiamo a Dio, al nostro Dio, la dobbiamo a Dio, al nostro Dio, per altri motivi. Quindi, dice, la lode, il pentimento, la preghiera e qualunque altra forma di dolore, come tu dici, a Dio gliela dobbiamo già per altri motivi. La lode gliela dobbiamo a Dio perché lui è, per essere colui che è. È un dovere lodare Dio, perché Dio se le merita le lodi. Dio è superiore rispetto a noi, e manco poco. Dio non si merita le bestemmie, si merita lodi, adorazioni a gogò, come si dice oggi. L'adorazione, perché ci ha creati. Lo sai che tu non esistevi 150 anni fa, così c'è. Ci rientriamo tutti. E lo sai che cominciava ad essere non perché papà e mamma sono stati insieme. Quello è accidentale, quello. Ma perché Dio ha creato la tua anima. Ah, certo, poi con il concorso anche dello stare insieme di papà e di mamma. Bella domanda questa qui. Voglio provare a fare questa bella domanda. Ma Dio crea l'anima dopo che c'è lo zigote? Oppure pensa l'anima in vista dello zigote e quindi è lui che permette che in quel dato momento quei due gameti diventino uno zigote perché per quel certo DNA c'ha pronta quell'anima? Ah, io non sono in grado di rispondere a questa domanda. Penso che sia una bella domanda. In ogni caso, in forza di questo, l'adorazione a Dio è dovuta. Io tante volte ho detto, guardate che chi non adora il Signore, internamente e esteriormente, pecca mortalmente. Non è un peccatuccio. Io vedo che stanno, ci sono. Ci sono persone, col tutto che io, insomma, faccio una testa così alle persone, gliele insegno, gliele spiego queste cose, che anche dopo anni che sto in una parrocchia, continuano durante la messa, ma tante volte l'ho bombardate, a stare in piedi durante la consacrazione. Io chiaramente soffro a vedere queste cose qui, ma dentro il mio cuore di sacerdote dico, Signore mio, ma che succederà a questo qua? Perché non è che potrà dire davanti a te, ma io non lo sapevo. Poi intorno a me stanno tutti in piedi, stavo in piedi pure io. Perché intorno a me non stanno tutti in piedi. La maggioranza delle persone stanno in ginocchio. Perché a forza di dire, guarda che Dio lo devi adorare, tu non. Come ti permetti che scende dal cielo Gesù Cristo in persona? Ad attualizzare, a rinnovare l'offerta del suo sacrificio, e tu stai in piedi come un beccamorto, come un baccalà, come uno stoccafisso. Ma che sei matto? So, c'hai la protesi alla gamba, c'hai le cartilagini massacrate, te sei appena operato al crociato, per carità, va bene. Ma solo in questi casi va bene, eh? Se no tu ti metti in ginocchio. Tanto sta 2 minuti in ginocchio, non succede niente, pure se c'è un po' d'artrosi. Basta davanti al Santissimo Sacramento così, proprio senza manco. Io lo vedo in continuazione nelle chiese dove sto, no? Figuriamoci, in quella dove sto adesso, che è una chiesa turistica. No? Pensate che i turisti, quando passano davanti al tabernacolo, non si accorgono nemmeno che c'è il tabernacolo e che c'è Gesù lì. Ma l'adorazione è un atto dovuto a Dio, non è, dice, mo te faccio un favore, va, facciamo la genuflessione, mo te faccio un favore. Quello è un atto dovuto, quello lì. Il pentimento è un atto dovuto. Il peccatore deve pentirsi e piangere i peccati che ha commesso. Quindi il pentimento è un atto dovuto a Dio perché ci ama. E tu peccando hai offeso l'amore. E te devi pentire. La preghiera? Noi da Dio dipendiamo. Non preghi? Peggio per te, te perdi un autotreno di grazie spirituali, materiali pure, che agli uomini piacciono tanto le cose materiali. Tu prova a pregare tanto, vedrai se ti manca qualcosa. Nulla ti manca, sotto nessun punto di vista, perché il Signore dà con sovrabbondanza. Quindi tutte quante queste cose sta dicendo te eramate, dice, che vuoi tu, vuoi dare a Dio la preghiera, dice, basta che gli do la preghiera, la lode, l'adorazione, il pentimento, e a che serve pure il dolore? Quelle cose sono già dovute a Dio, non gli stai ancora dando niente di sostanzioso. Dice, soltanto il dolore, conclude Teneramata, non è un nostro dovere di creature per nessun titolo. Non c'è il dovere in quanto creature, quindi in quanto creature, quindi prescindendo, diciamo così, da un punto di vista, come dire, teologico e logico, e appunto del discorso che stiamo facendo per spiegarlo, non ci sarebbe nessun obbligo di rendere a Dio il dolore. Perciò la divina giustizia ha permesso, ha tollerato, poiché non è cosa che le faccia piacere, l'abbiamo sentito nel libro delle Lamentazioni, il dolore cristiano. Come un originale procedimento didattico, perché l'uomo possa completare ciò che manca alla sua redenzione, cooperi all'annientamento dei propri peccati mediante la sofferenza. Riconosca se stesso e trovi con facilità il suo Padre Celeste. Attenzione alle motivazioni del dolore. Completare ciò che manca alla sua redenzione. Ci avete mai pensato? Il Signore ci ha redenti, sì. Ma vuole che noi cooperiamo alla nostra stessa redenzione, ci mettiamo qualcosa del nostro. Primo. I peccati sono perdonati, sono annientati dalla divina misericordia? Sì, se sei pentito. Ma con la penitenza e la sofferenza tu cooperi al loro annientamento e Dio lo vuole, e quindi la sofferenza gliela devi offrire. E terzo, riconosca se stesso e trovi con facilità il suo Padre Celeste, la parabola del figlio il prodigo. Solo quando l'uomo soffre, quasi sempre, rientra in se stesso. Non tutti quelli che soffrono rientrano in se stessi, ma quasi tutti coloro che rientrano in se stessi sono entrati in se stessi a causa di qualche sofferenza, anche grossa a volte. Non illuderti, prosegue, il dolore è indispensabile in questa vita di peccato. Il dolore è la tomba del peccato, il dolore è l'annientamento per quanto sta in noi del peccato. Continua a leggere. È sciocco pretendere sorvolare la sofferenza nel cammino cristiano. Col pretesto infantile di attirare più seguaci. Oh, quelli che predicano il cristianesimo senza croce, il cristianesimo facile. Non seguiteli mai. Non seguiteli mai. Noi non abbiamo pretese di attirare più seguaci. No, no. Se tutto il mondo diventa cristiano, ne siamo felici. Ma il prezzo da pagare non è l'annacquamento della verità. Guardate, questo oggi è un problema diffuso, sotto tutti i punti di vista. Si stanno sempre a parlare nelle riunioni interminabili con vescovi di tutte le diocesi d'Italia, di come facciamo a tirare i giovani a fare questo, a fare quell'altro, no? Allora, secondo te i giovani si attirano proponendogli un cristianesimo, vabbè, ma tanto questo, sì, ma non ti preoccupare, d'accordo, facciamo Baldore, facciamo questo, facciamo quell'altro. Attenzione, ben inteso, io negli anni passati sentivo quando avevo un pochino di giovani che ho curato e seguito, sentivo essere parte della mia missione di educatore, diciamo così, anche quella di educare i giovani a sapersi divertire senza farsi male, una cosa importante. Ma non c'era solo questo. Io ai giovani, pur con gradualità, con le debite, spero, maniere, al momento opportuno, io gli ho detto che cos'era il cristianesimo. E vi assicuro che funziona. Non funziona, i giovani scappano soltanto quando si riduce la parrocchia alla brutta copia dei luoghi, oggi ancora di più, di ritrovo dei giovani. Io ricordo le mie esperienze giovanili, io non mi sono sempre rifiutato di frequentare i gruppi parrocchiali giovanili. Perché? Perché non c'era niente. Qualche volta che sono andato non c'era proprio niente, non c'era niente, non trovavo niente. Se io devo andare qui, io qui devo trovare qualche cosa di significativo, che nel mondo non trovo. Che tu mi porti a mangiare la pizza, ma io il sabato sera altro che pizza. Allora, mangiamo la pizza, poi vado in discoteca e poi vado a Ecstasy and Company, ti dice un ragazzino. Che vuoi Ecco, cosa competere? Che fai? vuoi? Shh. Che vuoi competere tu? Con questo. Devi avere il coraggio di presentare la nostra santa fede così com'è. La religione del nostro Signore Gesù Cristo, prosegue, non si concepisce senza austerità, senza attenzione a questa parolina, mortificazione volontaria, senza l'accettazione con carità, C maiuscola sempre, carità vuol dire amore di Dio, dei mali che permette il creatore senza venerdì santo. Datevi un'occhiata in giro, ma sentite in giro queste cose. Vi ha mai in qualcuno detto, parlato di mortificazione volontaria? Mortificazione, darti volontariamente la morte, mortem facere significa mortificazione. Il digiuno è darsi la morte. Attenzione, non ammazzarsi, mi raccomando, si capisca il senso metaforico di questa espressione, no? È una sofferenza. Ah, io che sto tanto bene che posso far mangiare e bere tutti i giorni, perché devo fare il digiuno? Io mangio, qualcuno potrebbe dire. E mangia. Ma Gesù ha fatto 40 giorni di digiuno prima dell'inizio della sua missione. Altri 40 se ne è fatti Mosè. Altri 40 se ne è fatti San Francesco, tanto per citare i più grandi eroi. Gesù ha esortato a digiunare dopo la sua partenza, aggiungendo anche dei motivi nuovi al digiuno. Possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro, digiuneranno quando lo sposo non ci sarà più. Col digiuno noi diciamo anche al Signore, a me non mi importa niente che se mangio o non mangio, mi importa se stasera faccio la comunione. Quello sì, quello mi importa. O stamattina. Attenzione, non si concepisce, neanche si concepisce il cristianesimo senza austerità. Dove stanno queste cose? Dove stanno coloro che ancora insegnano con autorevolezza, con fermezza e con chiarezza queste cose? Tutti quanti a proporre il cristianesimo dalla mangiatoia bassa, accessibile a tutti. Facile per tutti. Non è così, non è mai stato così. Io ho raccontato tante volte che in seminario, come credo ogni seminarista che sta lì dentro per vocazione, quindi quando tu cominci lì, stai tutto casato, stai perché, cioè, stai casato anche perché poi vuoi conoscere un po' meglio il tuo Dio a cui stai dando la vita, no? E dove vai a cercare? Io dico, entrato là dentro, dico, dove vado a cercare? Ma andavo in biblioteca e mi prendevo tutti i libri dei santi e me li sono divorati. È certo che tante volte leggendo tante cose restavo sconvolto. Dopodiché però mi dicevo una cosa molto semplice, dico, vediamo un pochino. È più facile che se sono sbagliati in autotreno dei santi o che mi sbaglio io? A proposito proprio di queste grandi austerità che i santi praticavano. E che io dico, ma che devo fare pure io con queste cose? Mi preoccupavo. E allora? È più facile che ci hanno torto loro che ci ho torto io. A cui queste cose sembrano strane, figlio del XX secolo. Domanda retorica, no? Dice, allora è vero che bisogna soffrire, ma non soltanto, si soffre anche un po' nella vita cristiana, ma la sofferenza non è tutto. Ed in ogni caso, riprendo la lettura, tuttavia sono dolori brevissimi, se paragonati con l'eterna durata della gloria futura. Sono tribolazioni molto fruttuose per il cielo se si sopportano con amore di carità. Non c'è male che duri 100 anni, dicono, ma come fa male? Questo è un proverbio, no? Dice, vabbè, il mare non dura 100 anni, anche perché siamo morti prima dei 100 anni, però fa tanto male. E Teneramata dice, ma non esageriamo! Ciò che succede è che per adesso sei schiavo dell'istante attuale. Questo ormai ce lo siamo imparati a memoria. Quindi, se devi soffrire, soffri, ma con pazienza cristiana. Se che pro amareggiarti il dolore con sterili ragionamenti se hai la speranza dell'eterno presente della beatitudine? Perché affliggerti più del necessario per un evento così fuggevole? Non esagerare le tribolazioni che ti invia il nostro Dio, sono amare, ma sono efficacissime medicine. Qui Don Pablo mi ha messo in nota una cosa che l'avrei detta tranquillamente se la nota non c'era, però la leggo, no? Le sofferenze del momento presente, scrive San Paolo nella lettera ai Romani, non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Ma che cosa vuoi che siano? Ancora, prima lettera ai Corinzi, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Ma ci crediamo noi a queste cose qui? L'abbiamo già visto in terra amata. Ci crediamo che in paradiso c'è una proporzione, cioè non è la stessa cosa presentarsi in paradiso carichi di meriti. Cioè, ma vi faccio un esempio, io faccio sempre questi esempi. Supponiamo che una persona ha preso sul serio il discorso del digiuno, mercoledì e giovedì, e il mercoledì e il venerdì. D'accordo? Allora, in un anno ci sono 52 settimane, io faccio sempre questi giochetti con i numeri, no? Quindi vuol dire che se tu fai i digiuni tutti i mercoledì e venerdì, tranne l'ottava di Pasqua di Natale, quindi togliamo 2 settimane, sono 50 per 2, fanno 100 digiuni l'anno. Lo fai per 10 anni? Sono 1000 digiuni. Lo fai per 20 anni? Sono 2000. Lo fai per 50 anni? Sono 5000 digiuni. Ora, giudizio particolare. Si presenta una persona che ha fatto 5000 digiuni, ha digiunato per 50 anni, fedelmente tutti i mercoledì e venerdì. E si presenta un tizio che non l'ha fatto mai. Domanda, io faccio semplicemente questa domanda. Tutto normale? La sorte di queste due persone sarà la stessa? Non avrà apprezzato nostro Signore, non dirà: grazie figlio mio per tutto l'amore che hai mostrato per me. Grazie per quanto mi hai amato, grazie per quanto hai sofferto per me. E adesso vieni a riscuotere ogni mal di testa che ti è venuto, ogni volta che ti saresti mangiato sto mondo e quell'altro che ti sei trattenuto. Sono sofferenze, sono piccole, perché non è tutto sto granché, ma sono piccole sofferenze. Ma tra 50 anni, se c'è qualcuno più giovane che ascolta queste cose, facciamo 80, dai, facciamo 100. Siamo tutti morti. C'è sta più nessuno qui. Non nella quarta dimensione, ci cioè, torniamo nella quinta, come abbiamo imparato, ma nella quarta dimensione tra 100 anni non c'è sta nessuno. E ci abbiamo soltanto sti 100 anni, troppi, però. 100 verso tutta l'eternità, ma se anche stessi a soffrire tutta la vita, cioè se tu dici, ho una vita che è un calvario, fosse anche questo, cioè quegli 70-80 anni della vita terrena che te li ricordi proprio, sei proprio stato tappezzato, bombardato dei croci a tutto spiano. E beh, ottant'anni con l'eternità, cioè qualcuno di voi è in grado di stabilire la proporzione? Che vuoi che siano? E se tu hai santificato quel dolore, non l'hai sprecato, come abbiamo imparato questa sera, ma tu sai che succede con quegli 80 anni dei dolori offerti al Signore? No, non lo sappiamo perfettamente qui, ma sappiamo che saranno ricompensate profumatamente. Con godimenti del tutto particolari, perché quanto più noi abbiamo abbracciato anche volontariamente delle afflizioni, ci siamo privati di qualcosa o ci siamo dati un dolore che potevamo evitare. Ovviamente, persone psicologicamente sane ed equilibrate, perché è vero che esistono delle perversioni psicologiche che si chiamano forme di masochismo. O alla gente che si taglia, tutte queste cose qui, però non certamente per spirito di penitenza cristiana, ma perché stanno male. Non è questa la penitenza. Ma le altre sì, noi chiediamoci al termine di questa cosa, io fino ad oggi al nostro Signore, ma che cosa gli ho dato? Che gli ho dato? Che gli ho dato? Quanti digiuni ho fatto? Quante penitenze ho fatto? Quante mortificazioni ho fatto? Quante preghiere ho fatto? Quante ore ho passato in preghiera? Quanto prego ogni giorno? La giornata c'ha 24 ore, facciamo un po' di esame di coscienza. Tempo della preghiera? Tempo della penitenza? Tempo del lavoro, tempo del tempo libero. Come stanno le proporzioni? Chiudo il capitolo. Invece molte afflizioni mal sopportate rassomigliano a quella del bambino corrucciato che castiga se stesso, rifiutando il dolcetto che gli viene offerto per uscire dalla sua arrabbiatura in bella figura. Ma non ci sarà forse dietro l'arrabbiatura lo spettro della superbia? Ecco, io mi fermerei qui, quindi lasciando questa puntata appunto all'illuminazione del mistero del dolore. Volendo un pochino sintetizzare, nessuno di noi pensi, che il nostro Signore si diverte a farci soffrire, né tantomeno che è la causa del dolore. Ma il dolore l'abbiamo generato noi, Dio lo ha preso e lo trasforma e lo vuole trasformare e vuole che noi lo trasformiamo in fonte di santificazione e salvezza. Se questo facciamo, soffriamo di meno qui di chi si ribella, soffriamo di meno perché ci risparmiamo un po' di purgatorio. Dove anche qui in purgatorio chi non prende sul serio la penitenza cristiana, poi ha voglia piagne pure in purgatorio, si piangerà, ma allora è troppo tardi. Noi possiamo e dobbiamo piangere fino a quando c'è tempo di farlo. Poi sì, il pianto delle anime purganti, che è un pianto purificatore, è però un pianto non meritorio. Sotto certi punti di vista sterile, serve soltanto a predisporli a poter godere della visione beatifica che non potrebbero mai sostenere macchiati di colpe e di mancanze anche minime, non espiate. Ma guarda, il purgatorio soffre enormemente, ma noi diciamo, oh, questo si è fatto 100 anni di purgatorio, beh, mo in paradiso il Signore lo ricompenserà. No, non ricompensa manco per niente. Ma se io sulla terra dico, mamma quanti peccati che ho fatto, fammi fare un po' di digiuni, fammi fare un po' di qualcosa, che imploriamo anche la divina clemenza, imploriamo appunto la perfetta redenzione e espiazione, e poi questo, che è una cosa molto, molto inferiore alle pene del purgatorio, San Tommaso, diciamo come sempre l'interdisciplinarietà, vedremo quando arriviamo a San Tommaso, diceva che le pene del purgatorio, la più piccola delle pene del purgatorio, è superiore alla massima pena che qualunque essere umano possa vivere sulla terra. Quindi più grandi, ma non meritorie. Qua sono più piccole e sono meritorie. E anche se fossero croci significative, è sempre niente in confronto all'eternità. C'era anche San Francesco che diceva la sua filastrocchetta, che poi gliela copiata Santa Gemma, no? Tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi è diletto. Ci crediamo noi a queste cose? Ci credi che esiste la vita eterna? Stiamo a parlare di tenera amata, ma tu ci credi sul serio che esiste il paradiso? E che le regole del paradiso sono sempre le stesse, non è che sono cambiate adesso negli ultimi 50 anni. In paradiso c'è chi osserva i 10 comandamenti e si sta tanto più in alto in paradiso quanto più grandi e più eroiche sono state le opere eroiche di tutte quante le virtù e in particolare quelle rivolte all'Altissimo. L'adorazione, la lode, l'espiazione e il dolore offerto e trasformato in croce. Bene amici, direi che con questo possiamo concludere e ci aggiorniamo, se Dio vuole, alla prossima puntata. Dio vi benedica e la beata è sempre Vergine Maria, sempre tutti vi protegga.